effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E allora, ciao a tutti, 1359 in onde medie, siete su Radio Wombat e questo è lo spazio radiofonico della Stampa Rassegnata. Ciao, un salutone per chi non ci conosce, questo è uno spazio in cui da tempo facciamo riflessioni, critiche e diamo uno sguardo alla cronaca locale, quindi ciò che avviene a Firenze e provincia. E per chi invece ci conosce, un grande saluto come sempre ai nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, e subito le scuse per l'appuntamento della scorsa settimana che per impegni esclusivamente personali ho ciccato per l'incapacità di poter realizzare la trasmissione. Come ho detto, per chi ci conosce o per chi non ci conosce, la nostra trasmissione ha una cadenza settimanale, quindi ripeto le scuse per l'appuntamento saltato. Questa settimana ci dovremmo muovere, diciamo, sulla carta tra gli avvenimenti del lunedì 15 di ottobre e più o meno quelli del fine settimana del 20 e del 21, ma siccome appunto la settimana scorsa l'abbiamo un po' saltata, ci sta che faremo anche qualche salto nella cronologia. Per chi non lo sapesse, ci potete ascoltare nella diretta del lunedì alle 15.30 oppure il mercoledì alle 23.59, che sono poi di fatto la mezzanotte, o il giovedì mattina presto, abbastanza presto, alle 8.30. Questi gli orari che da diversi mesi ormai caratterizzano, insomma, il palinsesto della nostra, i passaggi della nostra trasmissione, per differenziarci, per avere fasce orarie diverse, permettervi di trovarci in orari e giorni differenti e anche per fare spazio alle nuove trasmissioni che hanno in qualche modo arricchito e popolato più recentemente la nostra Radio Wombat, che ha ripreso a ruggire con piacere e con un certo successo anche nelle onde medie, oltre agli ascolti che potete fare ovviamente attraverso lo streaming o alla tranquillità e alla garanzia che offrono i podcast nel poter riascoltare le trasmissioni scaricandovele quando più vi comoda, o anche andare a ricercare materiali più o meno di archivio se a volte possono risultarvi interessanti o incuriosirvi. Queste più o meno sono i saluti rituali, per poi piombare a bomba sulla una notizia di questa settimana che non mi vergogno a dire che stavolta si comincia con la merda. Qualcuno dirà che si comincia e si prosegue e a volte si finisce anche spesso con la merda, andando a guardare le cronache locali, che quasi mai ci portano delle buone notizie, ma insomma questa volta si parla proprio di merda nel senso letterale del termine, e insomma in qualche modo credo sia interessante anche andare a vedere quello che succede su questa cosa. Ora ho detto merda un po' per provocare e un po' per ridere. La notizia è questa. La prendiamo da Repubblica, tanto per prenderla da una qualunque delle cronache locali, perché non è il fatto in sé quanto quello che porta con sé a renderla interessante rispetto alla nostra trasmissione. Corteo sui viali dei camion spurgo, pesanti disagi al traffico, da Repubblica del 16 di ottobre. Brevemente, pesanti disagi al traffico ieri mattina a Firenze per la protesta organizzata da alcune ditte di spurgo della Toscana. Una trentina di camion delle aziende hanno percorso i viali a Passo Duomo partendo dalla zona di Novoli per arrivare a Campo di Marte. Può darsi che qualcuno in qualche modo se ne sia accorto, perché chiaramente, insomma, c'è stato anche, come sempre, come ha già detto il giornale, ripercussioni sul traffico, per cui insomma ogni manifestazione, non si sbaglia nelle cronache locali, ogni manifestazione parte sempre ed esclusivamente con i disagi al traffico, per non dire addirittura che si ferma a quello. In questo caso abbiamo quantomeno la dignità della notizia, per cui ci dicono il perché. Obiettivo della manifestazione, che non sarebbe stata preavvisata alla questura, quello di chiedere una soluzione per l'emergenza liquami, dopo lo stop alla ricezione dei liquami da parte degli impianti della Lombardia, che è arrivata il 23 luglio scorso. I mezzi hanno creato disagi, in particolare in Viale Lavagni, insomma, e si continua, poi qui questo ci interessa giusto. Dice l'avvocatessa Monica Caioli, la situazione resta bloccata, legale, lei è la legale delle aziende che hanno fatto, insomma, organizzato la protesta, nel decreto mille proroghe del governo, lo stesso che si occupa del ponte Morandi, è stato inserito un articolo che si occupa dello smaltimento dei fanghi, ma non è sufficiente. Anche l'ordinanza urgente firmata ad agosto dal governatore della Toscana Enrico Rossi, che ha individuato discariche in Toscana autorizzate a ricevere extra flussi di liquami, non ha risolto la situazione. Poi c'è il commento del capogruppo dei 5 Stelle, Gianna Relli, in consiglio regionale, che promette la soluzione del problema. Finalmente nel DEF, appunto, il documento economico finanziario di cui si discute da tempo, grazie all'iniziativa del ministro Costa, è stato introdotto il parametro soglia per gli idrocarburi, che permetterà, nel rispetto di ambiente e salute, il riavvio della pratica di spargimento dei fanghi nei terreni agricoli. Questa è sostanzialmente la notizia che abbiamo dato, quindi la protesta dei camion spurghi. Ora, così per allargarla un po' e spiegarla, cosa che appunto può sembrare, cioè, diciamo, passandoci così sopra con lo sguardo, abbastanza una notizia magari degna di insomma, non troppo degna di essere commentata, di essere guardata, o senza alcuna presunzione, senza gli elementi per comprenderla, e io stesso non ho poco faticato, ma ho trovato, insomma, diciamo, interessante e appunto importante in qualche modo approfondirla, o forse più che approfondirla, dipanarla un po'. Che è successo? Mi sono accorto, come dicevo, io stesso, quindi chi non avesse capito niente rispetto a quello che succede sugli spurghi non si senta in nessun modo in imbarazzo e inferiore a nessun altro, in primis a me, perché ripeto, l'ho cercata di capire meglio perché mi aveva, come ho detto, attratto nelle cronache. Non è solo un problema, diciamo, di tipo amministrativo, no? Si potrebbe dire, no, questi imbecilli, c'è un problema, un cavillo burocratico che impedisce a della brava gente che si fa anche il culo, perché sicuramente i lavoratori degli autospurghi, soprattutto i lavoratori dipendenti, il fatto che lavorino con la merda non toglie alcuna dignità al loro lavoro, ma indubbiamente lo rende un lavoro non particolarmente appetibile, e questo lo capisce anche il mio figliolo che ha fatto appena 3 anni. Ma non è solo questo il problema, la grande questione è che nei liquami, nello smaltimento dei liquami, cioè ciò che sostanzialmente viene trasportato e aspirato nelle operazioni di svuotatura dei pozzi neri e delle fogne, a volte ci sono idrocarburi vegetali e quindi, diciamo, innocui per la salute, che possono in qualche modo essere processati da un punto di vista biochimico senza alcun rischio per la salute, anche attraverso un banale e usuale spargimento su un terreno agricolo o meno che esso sia. Altre volte invece all'interno dei liquami si possono trovare degli idrocarburi assolutamente cancerogeni, e questa è un'informazione che non circola, non è assolutamente scontato saperla o averla presente, ed è proprio su questo che si è creato questo problema non da poco legato appunto allo spargimento e allo smaltimento dei liquami. C'era appunto, come dice anche la notizia, l'impossibilità di smaltirne gli impianti della Toscana, che erano pieni. Per la verità, anche in alcune cronache locali precedenti si era già parlato della notizia, l'avevo sorvolata proprio perché non l'avevo capito la sua portata, non l'avevo capita fino a che non ho guardato, insomma, un sito di riferimento per chi si incuriosisce o ha a che fare o si misura con le tematiche legate al diritto alla salute e alle nocività e all'ambiente, sito che è Peace Link, un sito che ha particolarmente a cuore la vicenda dell'Ilva di Taranto con tutti i suoi veleni, le sue morti e le sue problematiche. Dal sito Peace Link si evince appunto quanto mi appresto a dirvi leggiucchiandolo qua e là. Che è successo? Che il governo infila i fanghi con gli idrocarburi nel decreto legge su Genova, lo aveva detto anche l'articolo di Repubblica, ed infatti è proprio lì il cambiamento, con un articolo che è l'articolo 41 dentro il decreto legge su Genova, che, se vi ricorderete, anche da questi microfoni avevamo in qualche modo tra virgolette festeggiato, perché portava dentro di sé anche il ripristino della possibilità di concedere la cassa integrazione per i lavoratori licenziati, diciamo, per giusta causa. Quindi l'avevamo commentato e avevamo parlato del decreto legge, del decreto Genova, di questo decreto fatto d'urgenza dal governo del cambiamento, tra moltissime virgolette, per il ripristino del ponte, e ne avevamo parlato rispetto alla vicenda degli operai Bekaert, che grazie all'articoletto sul ripristino degli ammortizzatori sociali, cioè della cassa integrazione contenuto in questo decreto, avevano in qualche modo avuto la possibilità di accedere a questi ammortizzatori sociali e di rimanere, insomma, in qualche modo come gruppo, per aprire una seconda fase della loro vertenza legata alla possibilità di una reindustrializzazione dello stabilimento di Figli ne va a darlo. Invece, con questo articolo 41 si va a modificare una precedente normativa, che era una normativa risalente al 92, più precisamente il decreto legislativo del 27 gennaio del 92 numero 99, che fissava una quota di un limite di legge per gli idrocarburi all'interno di questi fanghi. Il limite che era fissato e che era valido fino ad oggi, quindi dal 92 fino ad oggi, era di 50 mg per chilogrammo. E quindi, insomma, qui la situazione è andata a cambiare in modo particolarmente peggiore, in modo molto peggiorativo, perché con questo decreto, quindi ripeto, con l'articolo 41 contenuto nel decreto Genova, si innalza il limite di idrocarburi all'interno dei fanghi da smaltimento ad un limite di 1000 mg per chilogrammo. Questo chiaramente è un limite che da 50 a 1000, capite la enorme differenza, e si va, appunto, ripeto, che nei fanghi vi sono a volte idrocarburi vegetali innocui, altre volte idrocarburi cancerogeni. Cosa c'è di preciso in ogni autocisterna che scarica i liquami è molto, ovviamente è complesso saperlo, distinguerli uno dall'altro, ma insomma si viaggiava rispettando il principio di precauzione e utilizzando questo parametro. Sicuramente, come spesso avviene in ogni tipo di legislazione, anche 50 mg per chilogrammo non faceva certamente bene alla salute, però insomma da 50 a 1000 la cosa è assolutamente preoccupante, perché insomma si inserisce in una cornice che ben conosciamo e ben abbiamo visto sia all'interno delle nostre cronache, ma ancor più in generale guardandosi intorno rispetto a quello che succede in Italia, con particolare riferimento al nostro paese, quindi all'Italia, che l'ambiente e il diritto alla salute continua in modo sistematico ad essere piegato e subordinato a quelli che sono gli interessi delle imprese e alla possibilità di accumulare ricchezza. Questo è di fatto un conflitto che si è dato nelle nostre società industrializzate da molti e molti anni, ma che è arrivato a limiti davvero impressionanti, e questo purtroppo ci sembra l'ennesimo episodio in cui la salute, il diritto alla salute e la tutela della salute degli abitanti e la difesa dell'ambiente e dei territori viene sacrificata per il profitto delle aziende. Certamente diciamo il problema è di amplissima portata, perché se è vero che le aziende che smaltiscono i liquami possono in qualche modo essere considerate anche e forse una sorta di lobby che quindi ha degli interessi da difendere e delle pratiche da consolidate che non vuole cambiare, perché probabilmente un adeguamento anche banalmente in termini di altre tecniche o quant'altro gli costerebbe, e quindi lo rinviano probabilmente all'infinito per mantenere quello che è il cosiddetto business as usual, come con espressione che va abbastanza in voga nella sociologia contemporanea, che dice solo che il fare il business come si è sempre fatto è profittevole da un punto di vista economico per le aziende, ma miope e assolutamente letale sul medio e lungo periodo per tutti, compresi poi i profitti delle aziende, perché quando non ci sarà più possibilità di realizzarlo in quel modo, le riconversioni saranno ancora più costose perché improvvise e genereranno altri danni, e qui siamo proprio in questo tipo di problema. Però insomma, fermo restando che il loro modo di incedere e di procedere possa essere lobbistico, e quindi ribadisco, tendente e teso a mantenere tutto com'è senza preoccuparsi delle conseguenze, c'è anche chiaramente da dire che insomma, in qualche modo le nostre forme di vita, soprattutto le forme di vita urbanizzate e metropolitane, costringono sempre più spesso anche le persone comuni a fare uso dello smaltimento e dello spurgo in maniera periodica, per tutto quello che buttiamo all'interno dei sistemi di scarico, per il modo in cui i sistemi di scarico fognari sono concepiti e per tutta una serie di ragioni. Non ultime, credo, per quanto riguarda agglomerati urbani, come per esempio riguarda la nostra città, non ultimo direi, senza con questo demonizzare niente e nessuno, non ultimo però il problema dei city users, cioè il fatto che se un territorio e una città in qualche modo è predisposta su alcune asset fondamentali come quello delle fognature, è predisposta ad ospitare numero di persone, il fatto che con una certa continuità il numero degli abitanti, o perlomeno dei city users, e con city users in questo caso si intendono coloro che usano le fognature, aumenta in modo significativo, c'è un innalzamento del numero di fognature da svuotare. Detto proprio in modo veramente quasi brutale, mi scuso se può sembrare volgare, se ci sono più culi a cacare di quelli che sono i culi dei semplici abitanti, è chiaro che c'è più da smaltire, e non è sicuramente un caso se la protesta dei lavoratori degli spurghi, quantomeno delle aziende, cerchiamo anche di dare il giusto peso alle parole e alle cose, la protesta è stata inscenata dalle aziende, non tanto dai lavoratori. Ovviamente all'interno di aziende come quelle ci saranno figure imprenditoriali che sono nello stesso tempo imprenditori lavoratori, no? Da questo punto di vista, però insomma la protesta è stata fatta dalle aziende. La protesta non è un caso se è stata fatta a Firenze, di sicuro certamente ci sarà il fatto che Firenze è il capoluogo di regione e quindi si viene a Firenze per, ma dall'altra parte è anche vero che è proprio su Firenze che il sistema degli spurghi rischia un serio collasso, perché non c'è la possibilità di farlo. Noi sappiamo che anche uno spurgo da civile abitazione ha raddoppiato i costi nell'ultimo decennio, proprio perché è più difficile farlo, ma non si tratterà solo di un aumento dei costi, ma si va incontro proprio a un collasso sistemico, cioè dell'impossibilità di proseguire. E per adesso la possibilità di proseguire con il sistema degli scarichi è stata garantita dall'elevamento del limite di legge rispetto agli idrocarburi cancerogeni. Questo purtroppo è una, come ho detto già e non mi voglio ripetere più di così, è un quadro molto preoccupante, perché si è sacrificato il diritto alla vivibilità e alla salute e alla difesa dell'ambiente di fronte alla possibilità di proseguire in questo modo. È una delle ennesime dimostrazioni di come purtroppo ci dobbiamo guardare seriamente in faccia e ammettere che moltissime delle forme della nostra economia, e con economia intendo anche del vivere associato, stanno tragicamente fallendo e richiedono e richiederebbero molte più insomma, risposte molto diverse, e risposte non solo alle solite domande, ma anche a domande differenti. Quindi la domanda non è solo dove si smaltiscono i liquami, ma le domande dovrebbero essere molte di più rispetto appunto al problema, problema anche generato, come ripeto, dalla fabbrica del turismo, di cui le prime vittime sono anche i turisti stessi, perché poi i turisti sono anche abitanti di altre città, dove da una parte questo succederà a Firenze, ma succederà anche da altre parti, e quindi insomma non è di facile soluzione. La mobilità umana insomma, pone le sue difficoltà, e io non ho risposte pronte o facili ricette da sciorinare agli ascoltatori di Radio Wombat, ma insomma ce ne andiamo su un pezzo musicale per distrarci e per rimanere in tema di merda, che sarà a sorpresa, ma insomma già l'avrete capito perché siete tutti ascoltatori perspicaci. Ce ne andiamo con queste interrogazioni, e però con una certezza, cioè il limite di legge per gli idrocarburi cancerogeni è passato da 50 a 1000, alla faccia del governo del cambiamento. Un po' di musica e tra un po', mi raccomando, non fatevela addosso. Tratto da Long Playing Amore Lavati, che ha avuto un successo all'ultimo festival, e volevo fare il mio classico, l'inno del corpo short. E questo è l'inno... Ah, scusate, magari qualcuno... Questa canzone dice... Parla che bisogna fare la popò, amici, e dice che bisogna farne parecchia. Dice che più se ne fa è meglio, eh. Dice anche che se non si fa la popò si può anche schiantare, veramente. Un'altra cosa triste dice questa canzone, che dopo fatta la popò ne ha pulisci dietro, perché non è bello andare a giro sudici in quella maniera. Adesso ve la faccio ascoltare, siete meravigliosi. Grazie Sacchino. E questo è l'inno del corpo sciolto, lo può cantare solo chi carca di morto. Se vi stupite la reazione strana, perché cantare soprattutto è cosa umana. Noi ci si svegliamo e dalla mattina il corpo sogna sulla latrina. Le membra riposano nel mezzo dell'orto, perché questo è l'inno, l'inno del corpo sciolto. Ci hanno detto vili, brutti e schifosi, ma son soltanto degli stitici gelosi. Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro, noi siamo quelli che han cacato di sicuro. Pulirci il culo da gioie infinite, con foglie di zucca, di pietola o di vite. Quindi cacate, perché è dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver cacato. Evviva i cessi, siamo benedetti, evviva i bagni, le toilette, i gabinetti, evviva i campi da concimare, viva l'arda e chi ha voglia di cacare. Il bello nostro è che ci si incazza parecchio, ci si calma solo dopo averne fatto un secchio. La voglia reggere per una stagione, e con la merda puoi far la rivoluzione. Pieni di merda andremo a lavorare, poi tutto un tratto si fa quello che ci pare. E chi ci dice, dice te fai questo o quello, gli caghiamo addosso e lo copriamo fino al cervello. Cacone, merdone, stronzone, puzzone, la merda che mi scappa si spappa su di te. Eccoci tornati in voce, era Roberto Benigni con l'inno del corpo sciolto, che dagli anni 80 ce la fa fare nei calzoni. L'avrete sicuramente riconosciuto senza pensarci troppo. Siete su Radio Wombat, questo è lo spazio della stampa rassegnata ed ora andiamo insieme, voliamo verso il centro di Firenze. Dal Corriere Fiorentino del 17 ottobre, non troppo spazio, una piccola spalletta per dirci parcheggio sotterraneo, ecco il bando. È stato pubblicato sulla rete civica del comune il bando per l'individuazione del soggetto che costruirà che cosa? Il parcheggio sotterraneo di Piazza Tasso. L'idea vecchia, appunto, e purtroppo l'avevamo già letta proprio agli inizi della nostra stampa rassegnata nel novembre-dicembre del 2017. È un'idea vecchia, appunto, risalente già al 2016 e che adesso è più vicina alla realizzazione. Palazzo Vecchio concede i diritti dell'area che non potrà interessare il giardino e le alberature, ma per 90 anni il posteggio sarà ad uso privato con box posti auto da destinare a pertinenza di unità immobiliare di fabbricati abitativi e non abitativi. Il 70% deve essere riservato alla residenza entro 500 metri dall'area di intervento. Il progetto, dato che Piazza Tasso rientra nel centro storico di Firenze Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, dovrà avere, secondo il bando, anche la valutazione di impatto specifica, cioè l'Heritage Impact Assessment. Una volta individuato, il soggetto assegnato avrà 60 giorni per presentare il progetto esecutivo. Immaginiamo, insomma, che da un punto di vista della presentazione del bando siamo nell'ordine di idee delle semplici formalità, cioè appunto immaginiamo che qualcuno pronto a realizzare il progetto già ci sia e niente, lo teniamo come notizia che tutto sommato abbastanza preoccupante, perché l'assalto al centro di Firenze, come da tempo lo andiamo definendo, non da soli ma in buona compagnia delle altre forze sociali, dei soggetti che animano le resistenze urbane in questa città, passa proprio anche dall'attacco al sottosuolo, quindi il tentativo di allargare le superfici andando a scavare sottoterra per cercare lo spazio che non c'è più o addirittura non c'è mai stato, come molto probabilmente si può dire per il centro storico di Firenze, nella superficie, passa anche dalla costruzione dei parcheggi sotterranei. Non casualmente appunto il parcheggio si trova o si troverebbe sotto Piazza Tasso, che di fatto è, si può considerare una delle porte d'accesso al centro storico, tra l'altro una delle porte d'accesso che è anche porta d'accesso a San Frediano e all'Oltrarno, che negli ultimi 3-4 anni, soprattutto con il mandato del sindaco Nardella, ha visto l'intensificarsi delle operazioni di gentrificazione che a partire dalla pedonalizzazione di Piazza del Carmine hanno cominciato a interessare l'Oltrarno, quindi la rive gauche di Firenze, che è diventata di fatto un quartierino che cerca di mettere in luce l'aspetto identitario di Firenze, con molte moltissimi ristoranti, con molte moltissime attività appunto di questo genere, oltre alle storiche botteghe di Via Di Maggio, diciamo di tipo antiquario o artistico, cerca un po' di creare questa situazione, poi tutto sommato abbastanza artefatta per come si è andata a connotare negli ultimi perlomeno 5, se non addirittura 10 anni, però insomma cerca di appunto tendere a questa suggestione, quindi un quartiere che è molto moltissimo in affitto, dove gli abitanti veri, nonostante San Frediano sia stata sicuramente fino agli inizi del 2000 una delle aree della città che più a lungo e in maniera più caparbia aveva resistito alla turistificazione della città, di sicuro anche Oltrarno ha subito questi effetti, e li ha subiti proprio in qualche modo prendendo anche spunto da questa sua caratteristica ancora popolare, che era riuscita a sopravvivere agli anni 90 e al neoliberismo rampante e ancor più all'offensiva degli anni 80. Quindi il quartiere si è andato a connotare non proprio come una vera e propria fabbrica del turismo nel senso più di massa, come lo possiamo intendere, ma appunto ha cercato di mantenere questi elementi, dando la suggestione di un quartiere a misura d'uomo, popolare, con i ristorantini de botteghe che si chiamano osterie e taverne piuttosto che ristoranti, però appunto come ho detto tutto abbastanza artefatto in un quadro di fatto di mercificazione in cui purtroppo attenzione, perché anche gli elementi o forse addirittura proprio gli elementi più storici e più in qualche modo identitari, intendendo con questo non una ipostatica fotografia del passato, ma appunto gli elementi che più connotano effettivamente le forme di vita associata di una città e di una popolazione, di una comunità urbana o non urbana che sia, quali anche le abitudini alimentari, diventano motore dello sviluppo e dell'imprenditoria capitalistica contemporanea. Per esempio, non è un caso se grandi notizie, insomma, sono girate intorno al fatto che patrimonio mondiale dell'UNESCO vorrebbe diventare anche la bistecca alla fiorentina, e a spingerla non casualmente è Nardella, dall'altra parte a spingerla non meno Napoli fa con la sua pizza napoletana. Quindi ognuno cerca di proteggere in senso economico e commerciale, di valorizzare svuotandolo poi di senso e riempiendolo di valore economico quello che ha. Comunque, notizia abbastanza preoccupante, come ripeto, anche nelle sue percentuali, negli aspetti tecnici, perché si dice che il 70% di questi parcheggi sotterranei che verrebbero realizzati sarebbero pertinenziali, termine tecnico con il quale si definiscono i parcheggi associati all'abitazione, però sono il 70%. La concessione poi è di 90 anni, quindi chi costruisce va a gestire per i prossimi 90 anni i profitti derivanti da questi parcheggi o garage sotterranei, però non ci è dato sapere se le percentuali ad oggi stabilite il rapporto di percentuale tra parcheggi pertinenziali e parcheggi invece liberi, perché comunque si parte con un 30%, saranno percentuali che dureranno invariate per i prossimi 90 anni o seppure potranno cambiare, nel senso che si comincia a costruire parcheggi con il 70% destinati alle case che ci sono, ma poi magari nel tempo le percentuali cambiano e si potrebbe arrivare tra 90 anni ad avere il 100% dei parcheggi a pagamento slegati dalle abitazioni, quindi andando a realizzare di fatto un parcheggio a pagamento per le persone che arrivano a Firenze da fuori, cosa che comunque si comincia a fare perché, ripeto, un 30% di questi posti auto saranno proprio per chi arriva da fuori. Chiaramente il tema è complesso in tutti i sensi, perché in un quartiere, in una zona, in una città, in un centro storico come è Firenze, le cui caratteristiche di centro turistico sono portate a livelli spasmodici, anche il fatto che si voglia liberare le strade e i bordi strada dalle macchine degli abitanti stessi, in qualche modo è un elemento che va a rendere il centro storico un parco tematico in cui si levano le macchine per fare per esempio spazio ai dehors, quindi ai tavolini dei bar, oppure si fa spazio per iniziative culturali, ludiche o di edutainment, come si dice oggi, o messe in scena più o meno rievocazioni storiche o altri tipi di iniziative che contribuiscono a rendere il centro storico un parco tematico, in questo caso a tema medioevale, rinascimentale, a seconda delle caratteristiche della zona, della via, del quartiere o del palazzo che c'è in prossimità, ma che sempre meno appartiene agli abitanti. E niente, questo è un po' il rompicapo del centro storico fiorentino e come tanti altri centri storici delle nostre città, del nostro bel paese, che nonostante le resistenze urbane è ancora preda e vittima di tanta speculazione e di tanto assalto della rendita fondiaria, che crea insomma quello che più o meno vediamo con una certa circolarità e ricorrenza nelle nostre cronache. Cambiamo notizia e andiamo ad un'altra notizia, sempre del Corriere Fiorentino del 17 di ottobre, una notizia non particolarmente rilevante dal punto di vista dello spazio occupato nel giornale, però rilevante per noi, anche perché ci offre quasi con puntualità, direi, la possibilità di fare due parole su quelle che sono le due vertenze popolari delle quali la nostra trasmissione si occupa in maniera continuativa e costante, cioè la questione delle resistenze popolari che si sono sviluppate in questi anni intorno al progetto di costruzione di un inceneritore da 198.000 tonnellate annue a Case Passerini, per la precisione, ma sarebbe comunque l'inceneritore di Firenze, come spesso abbiamo detto e ripetuto, e dall'altra parte la questione dell'aeroporto di Peretola, che vorrebbe diventare, nei progetti di Confindustria, delle associazioni di categoria, dei padroni della città, del territorio e dei cieli, un aeroporto intercontinentale da 4 milioni e mezzo di passeggeri. La notizia che ci fa da trampolino è questa. Ora basta con questi sudicioni incivili. Scaricavano rifiuti, presi e multati. Nardella, via all'offensiva con le fototrappole. Corredata poi da foto a colori, come caratteristica del Corriere Fiorentino, dove si vedono sacchi con la scritta ora basta, rifiuti insacchettati, rifiuti edili con la scritta ieri, scusate, rifiuti insacchettati e gettati a terra e con evidentemente contenenti rifiuti edili, pezzi di Eternit gettati a terra, e poi oggi la foto nella stessa località senza più i rifiuti. Quindi queste foto da corredo, sicuramente foto che colpiscono immediatamente il lettore e ci rimandano a un problema annoso, che è quello dell'abbandono dei rifiuti sia in zone marginali dell'area metropolitana, come vedremo ci sarà appunto anche dentro l'articolo, per l'appunto il ritrovamento, diciamo, di uno sversamento di rifiuti abusivo in zona Ponte a Greve con 50 sacchi di calcinacci e cartongesso, il cui colpevole è stato rintracciato e oltre alla multa ha dovuto ripulire tutto, diciamo anche per fortuna, perché in effetti, nonostante noi più di una volta, insomma, abbiamo sconfessato una politica che si fonda solo sulla punizione e sulla repressione, indubbiamente il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quello legato alle dittarelle, alle piccole ditte che portano spesso anche rifiuti in qualche modo speciali e che andrebbero trattati anche con procedure, spesso con ulteriori differenziazioni anche a valle del processo di smaltimento del rifiuto, va colpito e va arginato anche con le multe e anche con forme in qualche modo punitive per i trasgressori della regola. Dall'altra parte lo abbiamo spesso sconfessato, perché questo pare essere l'unico, quasi unico terreno sul quale il Comune di Firenze e le nostre amministrazioni si muovono per quanto riguarda appunto i rifiuti. Siamo del tutto convinti che infatti una dei limiti principali della politica di raccolta dei rifiuti sia anche quella della insufficienza delle isole ecologiche e di una certa fissazione per la consegna o perlomeno per il conferimento dei rifiuti in isola ecologica attraverso la necessità della bolletta e dell'intestatario. Sicuramente ci sarebbero delle difficoltà dal punto di vista di coloro che di fatto smaltiscono rifiuti seguono a processi lavorativi e che verrebbero senza bolletta conferiti senza essere pagati in maniera adeguata, però nello stesso tempo, se il rischio a cui si espongono le nostre comunità è quello a cui assistiamo da decenni, e appunto quello dell'abbandono dei rifiuti in giro per le aree marginali della città, sappiamo con certezza che poi andarsi a riprendere questi rifiuti ha dei costi assolutamente elevati, oltre che esporre, come detto, le comunità al disagio, che non è solo un problema di decoro, diciamo, che appunto non solo un problema di decoro e di moralità di coloro che sversano, ma spesso ci si espone anche a problemi di vera e propria nocività, perché a seconda di ciò che viene sversato e buttato, pensiamo per esempio all'Eternit, si possono avere delle ricadute immediate anche in termini di diritto alla salute e di inquinamento. Quindi l'Eternit, per esempio, contenente amianto, le fibre sono volatili, possono volare, possono essere inalate, respirate, entrare nella catena alimentare lontana è nel corpo dell'uomo, e questo solo per quello che riguarda l'Ethernet. Insomma, le responsabilità dei gestori della raccolta, quindi nel nostro caso Alia S.p.A., e della politica, quindi dei decisori politici e delle amministrazioni, sono sicuramente tante. Quindi se con la stessa solerzia con cui ci si occupa di fare multe e di piazzare fototrappole ci si incamminasse con una certa serietà anche nella differenziazione dei rifiuti, piuttosto che perseguire la politica del cassonetto dell'indifferenziata, ne saremo assolutamente più lieti e ci farebbe sicuramente più piacere, sia da un punto di vista del costo, perché come spesso ci ricordano le mamme non inceneritore, insieme alla rete Rifiuti Zero e Zero Waste, le amministrazioni che si sono incamminate verso una maggiore differenziazione dei rifiuti ne ottengono, oltre a ovviamente un vantaggio in termini di salute e preservazione dell'ambiente, anche un vantaggio di tipo economico, perché contrariamente a quello che si crede, le politiche di raccolta indifferenziata, conferimento in discarica o addirittura la politica dell'incenerimento non è a vantaggio delle tasche pubbliche e degli abitanti e dei cittadini, ma il contrario, perché sono impianti che poi hanno bisogno di essere sussidiati fortemente dai soldi pubblici. E quindi questo è quanto. Appunto, come dicevo, era anche un po' lo spunto, ci ha offerto un po' lo spunto per parlare anche dell'inceneritore, o quantomeno per ricordare a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat che la vicenda dell'inceneritore di Firenze non si è purtroppo conclusa, perché il piano regionale dei rifiuti, che da tempo aspettiamo, e nonostante le dichiarazioni del presidente della regione Enrico Rossi, che a un certo punto dell'inizio estate si è esposto dichiarando che l'inceneritore di Firenze è superato nei fatti e che quindi non va fatto, nello stesso tempo la regione toscana non ha ancora aggiornato il piano regionale dei rifiuti, che quindi non cancella la previsione dell'inceneritore di Firenze insieme ad altri ovviamente, e che quindi ci preoccupa. A questo si è sommata, come ho spiegato più volte ma ci tengo sempre a dirlo, il tentativo da parte dell'azienda proponente, che è la Q-Termo, formata da Alia S.p.A., cioè l'azienda pubblica che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e della pulizia delle nostre strade nella nostra area metropolitana fiorentina, e il gruppo ERA, cioè una multi-utility proveniente dalla regione Emilia-Romagna. Questa azienda, per l'appunto Q-Termo, ha impugnato la sentenza del TAR che prima a novembre del 2016 e poi a giugno del 2018 è stata riconfermata dal Consiglio di Stato e per vizi di forma aveva bloccato l'iter autorizzativo dell'inceneritore. Ora questa società ha impugnato la cosa sostenendo che, siccome la sentenza del TAR aveva bloccato tutto perché non erano state fatte le opere di compensazione preventive alla costruzione dell'inceneritore, siccome invece il master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC per la costruzione dell'aeroporto contiene in sé la previsione del bosco della piana, Q-Termo sostiene che siccome il bosco lo farebbero loro per fare l'aeroporto, a quel punto sarebbero tutti a posto, e quindi che quel bosco potrebbe compensare sia le emissioni inquinanti degli aeromobili sia quelle dell'inceneritore. Quindi questo è quanto. Questo quindi costringe il movimento, i comitati, le associazioni, tutti gli abitanti auto-organizzati che hanno dato vita alle vertenze di questi anni a in qualche modo rimboccarsi ancora le maniche e seguire, se non altro, la vicenda legale, giudiziaria, amministrativa di questo iter, nel mentre cercheranno e stanno cercando di organizzare e allargare il fronte della protesta per affinché il piano regionale dei rifiuti venga fatto e sia un piano regionale dei rifiuti che fa a meno della strategia integrata. Strategia integrata che, come tante volte abbiamo detto, ma è sempre bene, come ho detto più volte, ribadire per fare chiarezza, e oltre al fatto che magari qualcuno ci ascolta oggi per la prima volta, consiste per l'appunto nel estendere sì la raccolta differenziata, ma dall'altra parte non superare completamente la politica dell'incenerimento. E fino a che l'incenerimento non viene del tutto messo in discussione come pratica, saremo sempre un po' al palo e quindi condizionati da tutto questo. Questa, insomma, era per quanto riguarda questa notizia appunto il collegato aspetto legato all'inceneritore. Due parole, visto che chiaramente ci siamo un po' spostati da questo punto di vista nell'ambito della piana e delle due vertenze che ho detto, la vicenda dell'aeroporto di Peretola, che resta ancora fortemente discussa mentre si sta avvicinando la data della seconda conferenza dei servizi che si terrà a Roma, nella sede appunto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. E la vicenda resta, appunto, come tante volte vi ho spiegato, molto contraddittoria e ancora molto ambigua anche da un punto di vista amministrativo e di accordo fra gli enti, però diciamo in questa danza immobile dei passi avvengono e è avvenuto appunto recentemente, proprio nella settimana scorsa, settimana che abbiamo saltato per le nostre cronache, che la Regione Toscana abbia approvato il master plan proposto da ENAC Toscana Aeroporti. Notizia ovviamente che non fa piacere, perché per quanto non è solo la regione che dovrà legiferare in merito appunto all'aeroporto, però sicuramente ha un suo peso che non ci fa dormire sonni tranquilli. Il grande assente, o perlomeno l'ente, se così lo possiamo chiamare, ente che ha cambiato fortemente gli equilibri che sembravano spianare la strada alla costruzione dell'aeroporto, è stato proprio il cambio di governo con il quale si è ovviamente rotto l'incantesimo del giglio magico renziano, che attraverso gli accordi tra imprenditoria e politica sembrava poter favorire la costruzione dell'aeroporto. Questo si è interrotto per lasciare il posto a questo governo giallo-verde, dentro il quale si agitano le istanze più diverse. Abbiamo visto le frenate del Movimento 5 Stelle, che sembrerebbe contrario all'espansione dell'aeroporto fiorentino per invece un investimento infrastrutturale su Pisa. Dall'altra parte abbiamo visto degli strappi all'interno della componente destra del governo, con questo intendo la Lega, dentro la quale ci sono state dichiarazioni in un senso e nel senso inverso da parte di alcuni suoi esponenti. Lo stesso Salvini sembra invece convinto, o perlomeno ha fatto un discorso, una dichiarazione, una di queste dichiarazioni, diciamo, istantanee che vanno tanto di moda nella politica odierna e contemporanea, attraverso un Twitter dicendo che Firenze non va penalizzata nelle sue necessità, nelle sue aspirazioni di crescita e sviluppo e bla bla bla. Dichiarazioni che cozzano ovviamente invece con pezzi, come ho detto, delle dichiarazioni dei 5 Stelle, che sembravano o sembrano pensare a un'espansione dell'aeroporto di Pisa, e anche con altre dichiarazioni della stessa Lega, che nelle vesti del ministro Centinaio ha invece anch'esso teso a dare adito all'idea che si potesse espandere Pisa piuttosto che Firenze. Per quanto riguarda un aggiornamento, in qualche modo anche una pubblicità, una piccola presentazione di un'iniziativa che ci sarà, siamo convinti dal basso che il dibattito intorno a questo nuovo aeroporto, come è stato anche un po' per l'inceneritore, possa diventare l'occasione per discutere in maniera più approfondita e più larga la questione del trasporto aereo. Come sull'inceneritore, l'opposizione, il movimento e il dibattito che si è animato intorno al no alla costruzione dell'inceneritore ha permesso di discutere delle alternative, di approfondirle, di avvicinare gente a una discussione che è assolutamente necessaria e urgente oggi di fronte alla crisi ecologica, occupazionale e sociale che stiamo vivendo. Dall'altra parte anche il dibattito intorno all'aeroporto ha indubbiamente suscitato l'attenzione e portato l'attenzione sulla vivibilità dell'attuale aeroporto di Peretola. Un aeroporto che, come noi dentro comitati, movimenti, associazioni, abbiamo più volte detto, è un aeroporto che è cresciuto eccessivamente, che è nato indiscutibilmente male e che sarebbe assolutamente l'ora di cominciare a discutere della sua dismissione. Una dismissione che non ci sembra assolutamente un sogno adolescenziale né una fantasia infantile, ma che potrebbe essere praticato se la volontà politica potesse marciare e invertire le tendenze dell'economia del territorio. Sicuramente l'aeroporto intercontinentale nuovo, per come lo intendono, mangerebbe non solo, porterebbe un grosso problema ambientale legato all'inquinamento, ma mangerebbe anche posti di lavoro, i posti di lavoro collegati e collegabili alle prospettive di sviluppo del parco agricolo della Piana, che dall'altra parte invece verrebbe piallato e asfaltato per fare posto al nuovo aeroporto. Nella stessa direzione possiamo leggere la vicenda dell'attuale aeroporto di Peretola, l'aeroporto di Peretola che occupa alcune centinaia di lavoratori, con essi intendiamo sia gli addetti diretti allo scalo, i dipendenti di Toscana Aeroporti, sia quelli degli appalti, che sicuramente insomma sono un numero considerevole. Lavoratori che potrebbero essere riassorbiti, riformati, non necessariamente essere mandati a fare lo stesso lavoro a Pisa o in altri aeroporti, ma anche cambiare settore economico e settore lavorativo, mantenendo insomma gli stessi scatti di carriera raggiunti e in qualche modo trattandoli con rispetto. Questo certamente quando si parla di riconversioni industriali e riconversioni economiche diventa sempre, insomma, veniamo sempre attaccati come se fossimo noi coloro che insomma mettono le persone in disoccupazione, quando dall'altra parte invece ci parlano di progresso, quando non lo so, quando i meccanici specializzati sui motori a scoppio a benzina dovranno lasciare il passo per esempio a diciamo operatori dell'elettricistico o dell'elettronica nel passaggio dalle automobili a motore a scoppio e a combustibile fossile verso le automobili elettriche. Tutto questo sembra progresso, e invece se noi dicessimo di reimpiegare il personale dell'attuale scalo di Peretola nelle economie e nelle filiere della raccolta differenziata, verremmo presi o veniamo presi purtroppo come dei pazzi. Noi crediamo che non è assolutamente nessun tipo, nessuna forma di pazzia, e lo leggiamo come una possibilità concreta, chiaramente, che andrebbe e non può avvenire se non sostenuta da una forte volontà politica e da una coscienza popolare abbastanza ampia. In questo senso, quello a cui volevo arrivare era la presentazione, una piccola anticipazione di un'iniziativa che si terrà proprio all'SMS di Peretola il sabato 27 di ottobre, nella quale ci ritroveremo a discutere dei problemi legati al trasporto aeroportuale con altri comitati italiani. Ci sono molte esperienze di comitati e associazioni e auto-organizzazioni di abitanti che dal basso tentano di porre dei limiti e di razionalizzare il trasporto aereo. Trasporto aereo che è affidato a compagnie private e con progetti di investimento e di espansione per l'appunto privati e che tentano e tendono a massimizzare il profitto, entra oggi fortissimamente in contraddizione e in conflitto con il diritto alla vivibilità delle comunità che vivono nella prossimità degli aeroporti. Prossimità che non necessariamente sono quelle delle poche centinaia di metri, perché a seconda delle rotte, delle tipologie dei eventi, delle caratteristiche morfologiche del territorio e dello sviluppo urbanistico delle città, possono addirittura essere comunità che vivono grossi problemi e disagi legati soprattutto all'impatto e all'inquinamento acustico, ma anche e non secondariamente a quello atmosferico, anche a chilometri di distanza dai sedimi aeroportuali e dalle vere e proprie piste. Quindi ci ritroveremo il 27 sabato alle ore 15 all'SMS di Peretola, insieme ai comitati di Bergamo, Villaggio degli Sposi, legati appunto alle vicende dell'aeroporto di Orio al Serio, con il comitato No Fly Zone di Napoli, con i comitati di Roma, dell'aeroporto di Fiumicino e dell'aeroporto di Ciampino. Sono questi i protagonisti della nostra iniziativa, che insieme anche al contributo di Marco Amendola, un giornalista indipendente che ha fatto e ha il merito di aver aperto attraverso un piccolo video inchiesta il grande capitolo dell'inquinamento ambientale legato allo sviluppo del traffico aereo e anche quello del sussidio pubblico a mezzo delle cosiddette politiche di sviluppo al network, che consistono nei soldi versati dagli aeroporti alle compagnie low cost, che sono poi i veri protagonisti del business del trasporto aereo contemporaneo, prime tra tutte Ryanair, all'interno della quale abbiamo visto quest'estate una curiosa e interessante esperienza e pagina della lotta di classe contemporanea, che è stato lo sciopero delle crew di Ryanair, che si è dipanato a livello planetario. Insomma, un'interessante pagina della lotta di classe e della lotta per la redistribuzione della ricchezza, per relazioni industriali meno barbare, nonostante l'ambientazione e lo scenario aeroportuale possa a prima vista proiettarci in chissà quale futuro. In realtà si parla di lavoro e sfruttamento, come si è sempre discusso e come si è sempre visto, se non addirittura in forme più brutali e più evolute. Questa è l'iniziativa alla quale vi invitiamo, e con questo vi salutiamo per questa settimana di Stampe Rassegnate, sperando appunto di vedervi numerosi anche all'iniziativa che vi ho appena orora illustrato. Quindi un pugno chiuso e a risentirci per la prossima settimana. Ciao ciao!